qua, gatta. Oh, gatta, c'è qualcuno? Cosa, Gianfra? Vabbè, ma io almeno domenica mattina devo uscire, non è che posso stare a casa a controllare il baracchino, eh. Ce l'ho fatta la sera, capito Gianfra? Se no alla fine poi l'incoglionismo sale, catta. Ecco, adesso che sei in via di stazionamento, tu dove sei la notte, sei la mattina. No, no, c'è troppo freddo ancora, estate, l'estate, inizio a travestirmi allora, capito? Va bene, va bene. No, sta così bene a casa. E domani, cioè, lunedì e martedì ancora impegnato, documentazione che sto finendo di fare, presentare, dopodiché da martedì siamo liberi anche di mattina e così ci dedichiamo ad andare a funghi, capito? Mi raccomando, solo quelli rossi con questi impianti, gli altri non servono. Sicuro, io non li conosco, io fu, non ti preoccupare, già mi portano. Io metto appresso, anzi gli altri li fanno, io me li mangio, la verità. Questi figli? Io non ci vado. Io sono troppo, non un po' alto, forse è la sensazione, no, io c'ho segnale 2-3 di QRM, non di più. 2-3 di QRM c'ho. No, non è fisso, a 8, normalmente. Ed è raro. Però da ciò fa caso, magari va bene. Ma un po' di calore, no, perché si fa infestato, sono lungo. Qualcuno che avrà acceso qualcosa. Sì, qualche bottone lì funziona, c'è. Oh, una bel freschetto anche oggi, stamattina era da paura, poi è migliorato un pochino, adesso si è rimesso nuovamente la bassa temperatura. Ieri mattina c'era, stamattina lo sono sempre c'era un grado. E infatti adesso poco fa ho messo il coso solo sulla mano. No. Tocca spalare ghiaccio. Fino alle 9:30 quando si può uscire. Perché sto dicendo una campata di quelle ghiaccio, c'era sto ghiacciato. No, io sono uscito un po' tardi. Però no. Il ghiaccio non c'era la macchina, non perché era dentro, qua all'interno, ma se lascio fuori la strada sì, però qua all'interno è un po' più riparato, quindi il ghiaccio non ce n'era, però c'erano 4 gradi mi dava, perlomeno quando sono andato a fare colazione verso le 8:30, c'erano 4 gradi, poi ha migliorato un pochino, sono salito anche a Usolo stamattina, trovare un paio di amici con un collega di lavoro, ex collega di lavoro, ancora non mi abituo, e niente, e anche lì c'erano 4 gradi, non è che pensavo ci fosse più freddo. Sì, ma poi tardi è tutto col sole, però se si vede ai orari, anche per il cristallo, quindi già lo so, temperatura sua, tempo suo, possiamo fare, magari a Natale abbiamo la neve, noi siamo tranquilli, abbiamo il massimo. Ma mi sa la situazione è ancora abbastanza critica. E con i giorni scorsi 5 milioni di metri cubi abbiamo vasato più o meno 5-6 milioni, ancora il livello è molto basso, però diciamo che siamo fuori pericolo, dai. Meno male, se no dopo qualche gennaio devi stare al caldo. giorno prima, oggi stanno appena iniziando, già fanno, non è che è vero che ce ne facciamo, ehi, piano piano. Qui soldi adesso. Sì, se ne mangia adesso un po' per vecchia. Mi auguro. Ma tu qua, non lo sapevi. Infatti, dovevo vendere questa prima. So, non posso finire, c'ho delle cose da ultimare. Ma è tutto finito, no? Hai terminato tutto? Diciamo l'80%, ci sono altre cose da finire. E quindi devo, se no mi mangio tutto. La casa in vendita, stiamo andando benissimo, addirittura abbiamo due posizioni molto, molto buone la prossima settimana, devono venire due persone da fuori, non sono di qua, serve per la figlia, capito? Quindi così mi ha detto la Tecnocasa, adesso vediamo. Devo chiudere qua prima, sennò l'investimento è sbagliato, io faccio, mangio tutto e poi ne ho due di casa, a fare che cosa? Quello non conviene, se non mai fare stata, se non può fare. Non devi dimenticare di fare il pagamento per il servizio di 30 metri. Sì, c'è già uno scavatore pronto lì. E allora, una volta giù a Trincabo, Bruccio. Vaggio a fare assieme un Gabu Santa Bazzi, non devo fare proprio niente, ho finito con queste stronzate. Sono solo stronzate, capito? Non devo proprio assolutamente fare niente. Quando qua è praticamente venduto, in giro qualche giorno faccio pulizia totale sul tetto e lo metto tutto perché la mansarda rimane a me. Metto tutto dentro la scatola, in mansarda, conservo tutto, non si fa vedere più, adesso finiti giù, la radio andranno a finire da qualche parte e mi tengo solo questa e basta, non mi stai scherzando. Ma se io so che tu dovresti farti anche la galleria, tu che se non uscire in casa, ti fa la galleria, no? E va da casa tua al barbamento del traliccio. E la vivo lì, anche se piove, esci direttamente dal traliccio, che ha 30 metri, con l'ascensore ovviamente, e con l'ascensore c'è la cucina, e colleghi tutto quello che devi collegare. Beh, dove fare cosa e farle prendere, no? E mi chiamo Claudio, io non so un altro nome, ci hanno già capito. Mi stesso di casa, blu più pare il radio, ma vado a giocare in culo, scusa il termine. Vai. Così mio figlio mi ci butta fuori, a me la radio è pure. No. C'hanno altri progetti loro lì, non devo stare a impegnare il terreno, a impegnare il posto per la mia attività, che pure attività. Chiamiamolo attività, oramai. No, Gianfara, però non sto scherzando, non metto niente, neanche nulla. Metto solo la mantova, che tra l'altro la metto nuova, un'altra. E tengo questa, magari una solo, o il 4,40 o il 4,30, dipende, ci vediamo, comunque una metterò, solo per fare 27, basta. Dio, quando voglio salutare qualcuno, problemi non ne ho. Dio, parlo, saluto, eccetera, eccetera. E lì o metti le cose come devono essere messe, se no non te che stai ad ascoltare, e poi non arrivi manco a... non mi sento neanche con te, capito? Quindi meglio non ascoltare, non fare, non sapere. Tutto chiuso e tutto spento. Sono due HF, li ho già venduti, intanto non mi facevo niente. Ne ho tenuto una momentaneamente, poi due gemellini pure, basta. Adesso non c'ho più niente. L'amplificatore, vabbè, quello ce l'ho, perché quando farò il collegamento sul 440 lo userò col 440. Ho appena detto, già l'ho, diciamo, il 50% della roba che avevo l'ho già fatta, già fra, proprio perché non mi interessa più, non frega niente, capito? L'antenna chiaramente da solo non posso toglierle perché sono abbastanza pesanti e pericolose per come sono messe, quindi a tempo buono chiamerò qualcuno a darmi una mano, scendo tutto, piego tutto e metto tutto dentro la scatola. Dico solo che da sopra il terrazzo, perché c'è il terrazzo, avevo fatto vedere il progetto, mi pare, e si vede tutto Sassari, si vede anche casa mia, quindi, ma si vede soprattutto anche il mare, non è quella la difficoltà oggi, fra, è che non voglio mettere niente, non mi interessa proprio, capito? Potrei mettere lì quello che ho, potrei mettere una verticale, capito? Multibanda, non mi interessa proprio, non mi frega niente, già farò già, no, assolutamente, come già detto, ne ho venduto due di HF, mi volevano anche il terzo, ma ho detto, no, fino a quando sono qua uno lo tengo, e basta, tanto perché c'è collegata, sono collegate i direttivi, eccetera, c'è collegato tutto, se no avrei dato anche quella, capito, no, già fra, no. Mi capisce, ho altri progetti o altre cose, no? Anche loro, i ragazzi hanno, vogliono utilizzare il terreno diversamente, il genere vuole fare un tipo un canile con dei cani di razza, capito? Molto appassionato di queste cose, quindi non voglio mettere in mezzo altre cose. Va bene, lunga, non c'è convinzione. Questo ti capisco, se non fosse perché io come la tua società d'ascolto non ti sei trasmissente d'ascolto, a quest'ora sarebbe un quinto, forse un sesto di quello che ha cominciato. Se ci avessi la parte dell'ascolto, guarda, la radio sarebbe, non dico finita, ma vicino alla fine. Solo che fino a quando c'hai tutta l'attrezzatura, è sempre meglio essere in regola, capito? Ma una volta che tu non c'ho più niente, farò le cavere anche la patente, già ne fai. Tanto un pezzo di bambino non ci viene nulla. Ma io quello là perché non sta, non è che costi un grande tutto. Vabbè, fino a qua sta per il cane, poi ho detto che con il cane, quando veramente siamo importanti di tutto. No, mia moglie l'ho rinnovata, quando è stata rinnovata? 2015, quando ci scaleva, e c'ho il rinnovo 2000, con 10 anni, mi pare delle, adesso ce l'ho dentro il cassetto, comunque l'avevo già rinnovata, c'ho il foglio rinnovo allegato che mi era arrivato da Cagliari. Anch'io l'avevo fatta. Oh. soggetto a Caverici, quello ciclo bancario, tra l'altro lo conosciamo anche di vista, quella polizia penitenziaria, lì nella sua distrazione, su andare pianco, la strada è un po' bruttina, sta diventando, e poi è abbastanza trafficata, conosce le carceri. Non so, no, ma io il 50% del perché ho mollato un po' prima, e anche quello già fa, perché se tu consideri che io tutte le mattine alle 6 uscivo di casa, colazione in via Pascoli, poi a Sosso, poi anche il servizio, tutta la litoranea, la panoramica, col traffico che c'è la mattina e la gente che va al lavoro, anche la domenica di quelli che invece non vanno al lavoro ma che vanno, si mettono in macchina per rompere le palle agli altri, tutti i santi giorni fare quella strada, vai vieni, vai vieni, vai vieni, a un certo punto non ce la facevo più. Quello è stato anche un po' il 50% del mollare, capito? Approfittando del fatto che potevo andare via, quindi sono andato via, ma è stato anche quello, perché se fossi stato vicino, per dire nella zona di Osi, non so, Lulvi, sai, salendo da qui, poi sono fatto quella strada nuova da Osi a Lulvi, sono 8 minuti di macchina, qua non è finita, ma penso che per, dopo Natale, primi gennaio e febbraio, la stanno asfaltando, allora è diverso, ma metterti in macchina così, la mattina, con l'inverno, col temporale, con le cose, no, dici, basta, qua rischiamo di rimetterci le penne, allora ho mollato prima Gianfra, è brutto quando uno sta molto in macchina come me, come te, come tanti, alla fine stufa, infatti a me non mi piace molto guidare più come prima, perché mi ho preso una congestione proprio della guida. No, io non sto prendendo la FIFA, adesso non so le cose. Io ho guidato anche tutto, correndo, anche velocità, anche che tratti, ma sono state, come sto curando adesso, non è mai visto, veramente. Non so più avvicinare. Ora ma è di qua, non sto andando a casa, ma stavo venendo addosso, facendo un contatto. C'era lo smartphone sullo stesso, c'è tanto. Cioè, ma mi fa male. Se ti può ammazzare, per carità, ammazzati, ma ammazzati da sotto. Tu sei tranquillo lì, andando, rispettando le regole, questo. L'altra volta, le cose mi stava venendo un po' in storia, non dire, non ho visto neanche lo stop, era sparato con un mix. Mai. Infatti oggi il problema è stare attenti agli altri. Non è che, perché anche se tu sei tranquillo, vai piano, stai attento a tutto, bisogna stare attenti agli altri. Il pericolo sono gli altri, capito? Che non capiscono che quando uno guida deve stare attento alla guida, non al telefono, o stare a chiacchierare con quello che ha a fianco, devi guardare la strada e stare attento. I riflessi devono essere pronti, e soprattutto andare piano, non far vedere che sei Niki Lauda e poi sei un guasto guidando, capito? Perché batte uno stacco e ti sbatti da solo al palo. Ma tu proprio dalle tue parti, 2 giorni fa, sono fermato perché doveva passare una signora anziana. Senti, ma lo vedi che mi sono fermato per far passare un pedone? Uno stronzo lì per andare a 10 metri dal semaforo, ma sono passato, a momento non prende il piede, no, è classico, quando si segna fa passare la gente, c'è l'altro che si calma e accetta. La gente è scema, veramente. La maledizione che fa preso la tua signora, si è portato nuovo, la prende in seguito e la prende che ha portato anche la macchina. Ma non gli cosa è successo che hai parlato oggi a pranzo? Un furgone mi ha franciato, quelli erano, dove c'è la pensilina, non so se sia via il Papatore o forse di città di Austin, dove c'è la pensilina del campo. Non penso che sia lì, che lavorano su internet, cioè, ma ti rendi conto, no? Due persone lì che aspettano il tram, tu passi e l'ammazzi, siamo alla fine proprio a casino. Ma sono morte perché? No, ma che, te due. Ma io dico una cosa, io non capisco perché almeno la polizia urbana situazione, per cui è tossica, o si fa perché è impossibile, ma stiamo trattando un bambino, se esce di casa non sai quando vieni. Sono anziano, mio marito e moglie, tutti e due, sono morti a distanza di una mezz'ora l'uno dall'altro, capito? Ma si vedeva che erano già gravi, poi c'è una persona anziana, un di del genere non è che sono ragazzini, questo non so se erano sottoposto all'alcotest, eccetera, ma comunque. Più in base così non si capisce come, perché come so gli altri, bisogna occhi aperti. Io anche l'altro giorno mi uscendo qua a casa portano il cane, passano a mille, infatti l'altro giorno ho trovato all'autoserra il comandante di Vici Gianni, che ci conosciamo, ogni tanto non fa male se fai transitare una pattuglia di vigili urbani nella mia zona, perché non si può più, ne scendono da lì, ne salgono dalla rotonda per andare dall'altra parte, sembra una superstrada, che già scendono in via Milano a mille, no? Meno male hanno fatto il cemento armato, quella rotonda che c'è, piano piano sta sparendo tutto il cemento armato, perché ogni tanto ci sbattono dritti, capite? Ma così è tutta la rotonda, perché anche ieri avevo questo zona lì di tutta la Sicilia, non ho detto un'altra, che mi hanno fatto stare anche segnato, è una cosa che non si crede, ma non torna all'occhio, per cui stare attento, tutto quello che voi insomma, se si casca uno contro mano, guarda, se si tiene al volante c'è il tempo giusto di farti prendere la croce, e poi lo prendiamo dopo. Io so, no, quella rotonda di via Milano non ci sali sopra, già ti fermi davanti, c'è un muro di 80 cm in cemento armato, quindi già ti ferma, non ti preoccupare. Infatti l'ultimo che è successo si è proprio spaccata la macchina in due, ma non si è crepato, era tutto aperto in testa. Scusa della pioggia, se sta piovendo come ti metti a correre? Ha frenato 50 metri prima di arrivare alla rotonda, ha pattinato la macchina e si è schiantato contro il cemento armato. Prima o poi qualcuno già ci rimane anche lì, vedrai. No, ma quando salgono da via Milano per entrare in via La Malfa, salgono a mille, capito? Sono strisce pedonali, c'è il cartello 30, niente da fare, nessuno rispetta nulla. Fino a quando non calpestano qualche pedone, allora è un casino, ma vabbè, bisogna stare con gli occhi aperti e basta. Lo stavo dicendo, quindi mi ha detto, ma se sei ancora in fede, anzi mi ha detto che sei in fede, sino a quando? Mi sa che mi faccio tutto dicembre, non dentro a gennaio, sono partito. E così. Ah, ecco, sì, sono a posto. Non sai dove. Non è che proprio alla rotonda ci sta mercato, un po' più là. Addirittura è dove c'è il Cugugio, il cartello per entrare da Cugugio. Che lì c'è la pensierina del centro commerciale azzurro, lì c'è la fermata del tram. E qua si fa la vigilia del fuoco, che c'è il cartello Cugugi e il cancello per entrare proprio dentro qui. È a fianco al cancello. Cioè, ma qua non ci sono parole, non ci sono parole, perché avete vinto, dai, non c'è neanche la risposta. Sì, quelli a destra, fermo, aspettando, ho capito, aspettando, poi c'è la discesina per entrare a Cugugi da via Leopoldo Torres, perché si entra lì. Quindi quelli fermi lì aspettando, lui è arrivato a via Leopoldo Torres e vuole entrare a 30 Cugugi, capito? O si è distratto, era accorto, stava telefonando e ha pigliato in pieno gli sigla lì, ai cittadini Chivi. Certo che è così. Si è disintegrato, scatto con un palo, scatto un'altra macchina che la ferma, e così. Lui ha marito e moglie, marito e moglie, vai tu, faccio la missione, sono 69 anni, caspita, 69 anni, qualche anno più di me, non si fa a morire così, senza far nulla, aspettando il tram per il pullman per andare a casa, per tornare a casa. Se magari passi il pullman addirittura. E vabbè, tutto il mese di gennaio, diciamo, ti fa, e cioè va bene. Anche io quest'anno per la prima volta faccio Natale a casa con i miei, se no mi toccava lavorare il 25-26. Non c'è niente, finito. Io ho firmato le ultime carte il lunedì. Lunedì questa settimana, insomma di mattina devo andare all'Inps perché volevano lo storico, il professore aver finito con la documentazione, non devo fare più niente, ho fatto tutto, adesso aspettiamo a gennaio e così iniziamo la vera vita a pressionato con i soldi. Soddisfattissimo, perché il campo briscio, ci campo benissimo, senza problemi. Con i veli no, con i veli non mi sarei mai permesso di andare via prima, ma i calcoli che mi hanno fatto sono quelli e quelli sono. No? Ho anche un altro collega che ha fatto la stessa cosa e quindi percepisce una buona pressione. Proprio come hai detto tu, calcolo vecchio, lavoratore precoce, ho iniziato a 16 anni, quindi, però ti ripeto, ribadisco, non mi sarei mai aspettato che quei contributi ci fossero, quindi meglio così. Andare. Non c'è nessuno stasera, che ore sono? Sì, un quarto, tutti in cuccetta sono. Chi è? Sì, chi è? Sì, Santiago 6-7. No. Sì, per me te ce l'ho benissimo. Ma dove sei a casa della tua ragazza? Santiago 7 stai uscendo, tu già fra lo senti? Sì, da me ho un po' più di rovinato, S8, 8, 0, 9. No, tu sei lui, senti. Adesso ti sei abbassato però, Lu. Mettila bene con l'antenna, fissala. Perché inizialmente stavi arrivando a Santiago 7, la radio era buona, poi ti sei calato, non so cosa stai facendo. Già si sente un rumore di alternata, poco fa non si sentiva, come mai? Ma dove l'hai messa questa antenna? Sopra il frigorifero? Sulla sedia? È la massa di la gemiglienti? Ah? No, non va bene così, no? Non va bene così, lo non ti fidare. Piano di massa, bello largo, deve essere esterno, non nella sedia, no? Infatti vedi, stai innescando adesso, piano piano iniziano i difetti, stai attento, controlla le stazionarie, poi cosa devi fare? Cavo lungo, anche con barilotto, qualcosa del genere, fuori, all'aperto l'antenna, anche se della macchina, all'aperto, con una piastra, bene, base magnetica al centro, piastra, e tu hai risolto il problema, ma così sulla sedia non va bene. Vedi, stai scendo tutto graffiante adesso. Quindi sicuramente non stai lavorando bene, non c'è massa. Vai Gianfra. Sì, vediamo un po'. Adesso sono un po' aumentato, Luca. Il segnale mi sembra un po' più forte. Sto facendo male. Sì, sei 9.40, così è Ducato. Sei saturo. No, aspetta. Ecco, guarda se così ha migliorato un po'. Adesso va bene Gianfra, 9.30. Cos'hai detto Lu? Abbassato ti sei un bel. Aspetta Gianfra un secondo. No Lu, stai andando male adesso, però fa inizialmente stavi andando meglio. Aspetta un secondo Gianfra, mi stanno chiamando. Sì, anche io lo sento un po' così. Quindi non so. Dimmi. Luca, rimettilo come la prima, magari con l'antenna. Luca, mi senti? Prova. Subito già fai così da mangiare anche il cane. Sì, sono qua, sto facendo delle prove, Luca l'ho perso, come mi sente tipo? Ehi, se lo sistema l'antenna, aspetta un minuto, così mi tolgo da mangiare anche il cane. Ok, sono qua, sto provando. Sempre. Sì, di un alimentatore di PC, perché questi kit che vengono adesso sono tutti con l'alimentatore sotto e penso che non ci arrivano i cavi dell'alimentatore che ho io. Beh, no, ma sono abbastanza lunghi che ci arrivano, però ci dovrebbero essere le trombette, se sono di tipo plastico. Ce l'hanno sempre qualcosa di quelle trasparenti, se bianco sono trasparenti, a quarto contatto. Ci sono le trombette, sono anche doppie addirittura, per collegare tipo CD a disco, per così. Però ci sono. Puoi chiedere se roba con tutta la struttura di affermi. Ho capito, però mi serve anche quello della scheda madre, perché io voglio passare dietro io i cavi per non vedersi. Capito? Mettendo l'alimentatore sotto, non lo so se ci arrivano passandoli da dietro per arrivare alla scheda madre e a tutti gli altri, le altre cose che devo mettere. Va bene un po' in salita, perché tieni presente che quella roba lì deve essere il più corta possibile, anche sulle alimentazioni, proprio non si può rischiare a fare cavi lunghi e poi ti portare in portati degli studi, che allora sì, c'è la macchina. Con chi stavi parlando? Sono a Natale. Ciao Natale, mi hai sentito? Avanti. Ciao, sono andato a Fide che ha chiamato mia moglie. Io sono andato, mi ha chiamato mia moglie, ho approfittato, vado a mangiare a quel delinquente, così dopo ho portato mia figlia. C'è stato discrepanza tra professione e discrezione, è sparata, è professione invece. No, cambia il suo capo. Almeno 40-50 metri di capo di quello buono, perché se no c'è un po' di fermo, sta forse in posizione, non tanto le forze mai a zero, però. E come mai? Da che cosa? Ma le cose sono due, con le stazioni che mi ascoltano sono messe proprio male, perché io le sento a prescindere. Oppure c'è distorsione lungo il cavo, sono sempre la questione, perché ci sono anche gruppi di controllo antifulmine, capito? O anti-scarica comunque, perché ogni volta che spengo la stazione sganciano perlomeno con l'HS, sono queste spose. Però adesso vediamo, tanto il cavo era cambiato, quindi si dice direttamente anche con l'HS. Del capo Matteo, ovviamente la camicia, devo prendere 100 metri, è buono capire. Vediamo un po' cosa succede. No, io qua c'ho la camicia lo stesso. Un cavo di discesa unico, perché c'è il contatore elettronico. C'è un cavo di discesa lo stesso a Camilla per l'HF e per le VLU lo stesso a Camilla. Sono ispettori che vanno su dal commutatore alle antenne, sono tutti 213, quello buono. Sono come discesa, c'è la Camilla. Capito? Niente, neanche in traffico, tanto non serve a niente, però bene così per me. A me Natalia, cosa ci dici? Ehi, cosa ti dico? Che sto diventando scemo, che non ne vendono più di quei chiese per il computer che hanno l'alimentatore sopra. Ma è sotto, però cazzo, si va a comprare un alimentatore come se gli sui va giù io. Io non vedo sia Barughisi che per l'alimentatore, qua devo comprare tutto l'altro. Beh, a quel punto lì ti conviene comprare il computer nuovo. Ma mi rubo su io, se no poi prendiamo un computer già fatto, non mi conviene, a parte i TV. Assemblatelo tu, per ciò che serve, e aspetterà sempre tu, risparmi sicuramente. Lo credo. Vabbè, cercherò di risolvere. Se trovo le prunghe gli metto quell'alimentatore che ci vive da 500 watt. E andare. Io che ci lavoro sono per fare le contrarie. Come? Ho detto che io che ci lavoro un assessore sono per fare le contrarie. Tutti gli assessorati che mi sono capitati in mano erano proprio fatti, non c'avevano quella linearità dei computer stili. Già adesso qua da anni c'è un computer che non fa ricordo, quindi non è certo nuovo, non è un 4, non è un 5, non è un 7, però ti devo dire che c'è la marca, dice tutto, non ha capito. È comprata tutta la marca, in occasione era l'avevo tutto questo anno. È un cronoma, è proente, mai avuto niente, mai un 4. Io c'è tutto, c'è dentro l'intercambio a dischi, ridondanti, insomma, è una cosa eccezionale, però a capire non è una fine. Già lo so, quelli di marca così sì. Non ce l'ho anni, è nato con Windows, ovvero Windows 7, adesso è sicuramente al 10. Lo sta facendo, non so se sia pian piano, proprio bene, veloce, ma con virus, insomma, anche due linee. Sì, già lo so, ma già me la sento io, non è il primo che faccio, mi metto un i3, mi metto come processore, una scheda madre seria. Ma io questi assemblati così spesso sono possibili, poi diventano di più, non passano niente, anche perché costavo di nuovo, ma lo sono più caro. Se alle schede madri prese così sono quasi solo cifre che se uno quello che fa, questo rispetto per essere in prezzo io devo dire. Io ho anche la vista, l'ho fatto studio. Il costo della tecnologia, anche se ci protegge tutto effettivamente. Il primo che avrei comprato la senza una capita, però non ha semblato che gli ho fatto la vita. No, io l'avevo comprato nuovo, l'avevo fatto visitare Luca, nuovo proprio della Lenovo, ed è un computer, una scheggia molto veloce, l'avevo controllato Luca prima di comprarlo, va molto bene, ce l'ho già un po' di tempo, nessun problema. L'altro invece si era impallato e ce l'ho su mansarda, capito? Ce l'ho su mansarda, ma ancora da togliere quello che c'è dentro, già rimane così. Io in tutto ne ho sette di computer, che questo grande va capite di passione. Poi ce n'è uno che serve la TV e anche il sistema di videocamera, che è grande quanto facete di sigarette. Poi un altro poco più grande, che è grande quanto due pacchetti di sigarette, non uso più. E sono spettacolo, e posso usare benissimo per una normale navigazione. Poi la gente non capisce che il computer serve in base a quello che fare. Un po' come le scarpe, no? Non prendi le scarpe più grandi, perché qui ci sta meglio. Prendi le scarpe comode e la misura giusta. Cos'è il computer? Ti spende la quello che devi fare. Sono questi piccoli che sono dei niente, che costano 120, 100, 130 euro, ma devi vedere in azione. Io non me ne intendo già fare, non è che me ne intenda molto, lui è altalino, più preparato in materia, lui si sa anche assemblare tutto, io uso pochissimo il computer, capito? Vado a avermi le mail, vado a avere tutto, le cose che mi interessano, poi per il resto è sempre spento, non è che ci lavoro molto al computer, vai Natalino. Sì, diceva la zia Donata, che aveva le presentate saldate, tu mai visto, ne avevo roba del genere. Io come ho tirato mi ha lasciato e quindi l'ho dovuto collegare le altre due, se no non funzionerebbe, avevamo il votando. Poi dietro non si può aprire perché è di un'altra, dall'altra parte non si può aprire questo, che ci sono i ribattini, mi toccherò metto giù i ribattini e tutto, un caso, guarda, meglio la morte. Allora non vanno più già a sei. Io voglio che non sta piovendo, cosa c'è? C'è un fruscio allucinante. Questo è Compaq. Non è un gruppo, sta piovendo. Ma sta piovendo, Gianfranco. Da qua non lo vedo, non parlo. Lo contavo, si sono terminato la pazienza. Facevo portare il cane, aspetta un attimo. Non va niente, devi fare cose semplici. Non passate a velocità carina, non collegare anche per le persone. Lo so, lo so, lo so, guarda, quindi la 120 lo stai dicendo? Sì, io lo utilizzo per sapere che siano la mia sorveglianza, anche per guardarmi anche collegare su rete, per wifi, per tutto, per tutto. Ho fatto un po' di più. E collegato alla televisione quando voglio vedere qualcosa su Rai Film. Lo metto e si sta risolvendo, si è benissimo. Una cadena di mezzo, una televisione. Collegato alla televisione è un senso. Veramente non questo che sta per fare due lavori di macchina, questo è un calcolato. E poi, come ho detto, se ne sta fare cosa, ma non si faccia a prendere tutto. E che vale. E che processore c'ha? E quelli utilizzano... utilizzano anche come quadrico l'atom per la caratteristica, insomma, si vengono questi video più vari. Ma dove si trovano questi computer? Non hai mai visto 120 euro? Non so mai, sì, Amazon, non li conosco. No, quei computer non ne ho mai visto così. E io adesso qua sto piovendo per forte pure meglio così, tanto siamo alla luce, vabbè, ma io avevo anche sci a portare il cane dopo c'è rottura di balle e vabbè finito quando al palazzo dai ma non tanto che ce l'abbiamo là. Metto le scatole, non ti metto le scatole l'acqua, no, già ci vuole, ma dico, la mattina c'è il sole, no, poi la pioggia. No, vabbè, per carità, già è meglio che piova, ma... è perché... come può riuscire, no? Anche domani se piove o mai, quanto costa? Ancora, mamma mia, dovrei passare più. Ho appena passato ti era freddo. Tutto passato, grazie a Dio. E io sono in fase di guarigione, ma ancora non. Ancora no, fa male la gola, c'è un po' di tosse. Con il naso, almeno quello è, ha finito di covare. Però quando sono poi a casa, purtroppo, un casino. In questi giorni vai e vieni, sono uscito anche in moto perché per andare al centro, casino, se domani. Volevo lo stesso uscire in moto, però sta piovendo e poi sono ancora così. Mi toccherà uscire in macchina, dai. No, forse ho parlato assieme alla pallina, avanti quelli. Ma dopo cosa stai vendendo, patate, verdura, cosa, fammi capire cosa stai facendo. Sembra che stai vendendo patate. Gianni, lampade tutto, bel piacere, non ho capito neanche una parola di quello che hai detto, mamma mia cazzo. Ma è mai possibile uno che ha tutte le radio più belle immaginabili ogni volta mi dai di entrare con questo montone di garraggio? Non ti sento, stai dicendo male, sei tutto a fischi, ma cosa stai usando? Di nuovo quella mondezza. Oh, non so, Gianfra, tu lo senti bene, perché io non capisco niente. Non sento, però ti capisco. Ti stai allontanando, Gianfra? Sì, sta allontanando un attimino, lo sento male a capi due, tutto lì. E anch'io lo sento male, non ho capito niente. Tu hai sentito qualcosa? Ui, anche a me la puoi venire. Oh Marco, ci sei anche tu, hai sentito qualcosa? Io non sono riuscito a capire niente. Ho capito, me l'ha riparato, che cosa, però non ho capito. Tutto a fischi, tutto a inneschi, tutto, ma insomma. Scusate l'intromissione, ho appena, sono venuto adesso, appena ho sentito, mi pare che aprì di uscire cupo, poi a fischi, poi non lo so, poi sparito il radio, poi ha detto, se non sbaglio, Catalina. Catalina, sta usando un Catalina, così è Capri 2, ci sei, rispondi. Il Catalina non è un baracchino dell'anno 3? Sì, è un baracchino vintage, però forse è anche un baracchino di ultima generazione, io non ho capito niente. Ho sentito solo parlare, ho capito, me l'ha riparato, poi non ho capito niente. Tutto avrò bruciato. No, ma lui ogni giorno ne deve tirare fuori uno dalla vetrina, capito? Lui va in questa vetrina, come al supermercato, prende un baracchino, lo attacca, mi fa vedere gli attacchi epilettici, capito? Come? È meglio di prima, ma non è che sia al top. Ho detto, cosa stai usando? E quando lo sento te lo dico se è messo a posto, capito? Quando me lo fai sentire, allora ti dico se è messo a posto. Fammelo sentire, ti ho detto, tu fammelo sentire e poi io ti dico se è messo a posto, se va bene, se sei in isonda, se sei perfetto, se l'hai riparato, fammelo sentire, no? Santiago 9, sei qua, mancano 20 dB dal tuo segnale. Fammi sentire questo IAESO, stai attento che io la modulazione dello IAESO la conosco, non è che mi puoi fregare. Dai, fammi sentire, vediamo se l'hai messo a posto. Vediamo, se esce bene questo IAESO te lo vendo io l'MD1B8, vediamo, fammelo sentire. Ma che sia, vediamo, c'è un freddo cane qua, quindi perciò non sono entrato, Claudio, c'è anche uno Gianfranco, Natalino, non so chi altro ci sia. Peraltro sto rientrando in 4.32 sullo scanner, va bene. E come mai? Ah, col canale 1, l'altro canale 1 sta entrando AFTD, non c'è nessuno. Questa luce sta anche piovendo, io ogni volta a quest'ora ci mette a piovere, rompe le palle quando devo portare il cane. Che rottura, allora, Peppino di Capri, vai e coca di vai, che questo è il 440 col microfono normale. Non ce l'ha WhatsApp tuo figlio, fammi vedere la radio accesa, parlando. Fammi la foto mentre sto parlando io, ok? Non ci credo assolutamente, sino all'altro giorno era una cagata micidiale quella radio, adesso è funzionante. Non ci credo, assolutamente non ci credo, va. È che sei troppo lontano. Se no avrei preso davvero la macchina e sarei venuto a vedere questo IAESU 757. Non è la modulazione di Aesio questa. Questa è la modulazione di 440 con il microfono normale. Fammi la foto, fammi la foto. Non ce l'ha Ottavio WhatsApp, tu non ce l'hai, ma lui già ce l'ha. Fammi la foto mentre io sto parlando, così vedo anche il segnale e me la mandi su WhatsApp. Adesso ha migliorato dal giorno alla notte, ha migliorato dal giorno alla notte, sembra il 440 con il microfono normale, un po' più cupa comunque, dall'altra volta che non usciva per niente, capito? Adesso va bene, va bene, va bene. No, perché cioè, l'altro giorno era completamente una cosa allucinante, adesso sta uscendo bene, bene. Al 95%, però se mi fai la foto è anche meglio, così vedo il mio segnale. La ricezione com'è? Il segnale è uguale al 440 o più basso? Siete riusciti a tarare anche il ricevitore? Ehi, ehi, no, no, così giusto per rendermi conto anche del segnale, vedere la radio, tanto mi sembra che ce l'hai il mio l'account su WhatsApp, no? Vedi un pochino. No, perché adesso sta andando benino, sta andando bene, meglio delle altre volte, ok? Marco, tu come lo senti a Capri? Certo, discretamente, ma se parlasse normale senza parlare a voce alta sarebbe meglio. Infatti quando parla in verticale che si distoglie dal microfono esce migliore, se no tende leggermente a strappare. Aspetta, adesso mi manderà la foto. Andrò la foto, lei sta l'altra non sistemata, perché l'altra volta quando l'ho attaccata era impressionante quella radio, tutta distorta, tutta fuori frequenza, tutta, mamma mia. Se riuscite a metterla a posto va bene, tenendo conto sempre che a me non piace quella radio, la radio che non mi è mai piaciuta, non ha niente rispetto a quella della Chemud, capito? Bellina esteticamente, presentabile, ma alla fin fine non è che mi dice molto. E beh, mandate a me questa fotografia. E il microfono quale stai usando? Quello suo originale? Se vuoi già te lo so. L'hai messo a posto quella radio, te lo do volentieri. Capito? L'altra volta ho detto non te lo lavo, per metterlo in vetrina me lo tengo io. Ma se io te lo do che la radio funziona e lo usi, te lo do volentieri, perché no, intanto io non ne ho di radio da attaccare a quel microfono, quindi non ce n'è problema. Devi solo sostituire un filo, perché connessione ICOM, l'attacco c'è già, il connettore c'è già, devi solo invertire un filo e fare la connessione Gaesio, capito? No, la linea di craft ce l'ho sempre, l'altra sì me l'ho venduta. No, la linea di craft ce l'ho io col camera, quello che mi hai dato tu, ci manca il dato, quello cromato. No, ce l'ho. Assolutamente, no, non ci sono problemi. L'altra linea mi ho venduto. Sì, non gridare, va benissimo. Alla grande, segnale 920, la radio è buona. Rispetto alle altre volte, te l'ho detto. Se l'hai messa a posto che la usi, beh, volentieri te lo do l'MD1B8, intanto io non lo uso. Avanti, Marco. Eia, fammelo mandare, così c'ho il coso di WhatsApp di Ottavio. Magari se devo mandarle qualche cosa la mando a lui, capito? Ah, ho capito, sì. E quelli normali, vabbè. Cavolo, infatti devi essere anche veloce rispondendo. E io ho questo, ma per anni ho avuto sempre quello lì, non è che mi interessi più di tanto. Va bene, va bene. Marco, stai mangiando, va che facendo? Nattalì. Sono impegnato, dai, che sono andato a cucinare. Ciao, andiamo più tardi. Ehi, Nattalì, stai andando via? Sì, per il momento. Va bene, va bene. Io sono qua io. Hola. Ciao, Fra. È fatto in fretta andartene. E cosa? Ho detto ciao Cla. Oh ti, mi sono distratto. Ho abbassato invece di come si dice, ho abbassato il volume della radio. Infatti ho visto il segnale e pensavo che era Capri. E poi si è stato lì, è fatto in fretta andartene. Già sono qua. Com'è la popolazione qua? Non ho attaccato l'altro, Il grande, il gemello di questo. Eia. La tua perfetta, 920, radio 5 perfetta. Ogni tanto anche a questo, bisogna accenderlo. Lo so. tanto bisogna accendere tutto. Va bene, va bene, senza la soldatica. Ehi, non so se ti sente anche Tino, Tino lo sente a Capri 2. Sì, sì, ciao Capri 2, non so se lui ascolta me. Sono entrato giusto a salutare. Qua, ti ripeto, se non mi stai prendendo in giro, la radio è perfetta. Ah, la stessa modulazione del 440 col microfono normale, altro non ti posso dire. Ok, se stai usando lo Yaesu, stai andando bene. A me, ti ripeto, per la mia esperienza di orecchie, questa è la modulazione di un 440 col microfono normale. Poi, non voglio mettere in dubbio la tua parola, per carità, attenzione, però la radio ha la stessa modulazione di un 440 col microfono normale e nessuno mi può contraddire perché ho l'orecchio molto fine io. E lì dietro quella radio, scusati un attimo, ti fanno male gli occhi, lì dietro la radio ci sono dei tastini neri, ok? Dovresti guardare se ce n'è uno inserito in dentro, controlla, se ce n'è uno inserito in dentro, adesso mi ricordo se il primo da sinistra a destra o da destra a sinistra o se è quello centrale di tastino. Comunque devono rimanere tutti disinseriti, e sono tutti disinseriti, adesso ti schiaccia la portante e inseriscili a uno a vedere se il segnale sale. Oltre a quei tastini ci sono anche dei potenziometri, ti dovresti girare la radio, metterti gli occhiali e guardare, perché ogni potenziometro c'è scritto qualcosa, ok? E ogni potenziometro praticamente è collegato a ognuno di quei tastini. Allora, se hai quei tastini, mi devi provare, perché io non me lo ricordo, è tanti anni che non ce l'ho con la radio. Quei tastini lì, tu li devi inserire uno a uno e andare a toccare il potenziometro a fianco. Poi inserisci e vedete perché, molto probabilmente, il potenziometro, quando tu lo inserisci, non sale, perché il potenziometro sicuramente è da regolare. Una volta che è regolato lo lasci stare così, ogni volta che si accende la portante lui ti dà la potenza che tu stai usando. No, lì non sta di niente, sono delle cose completamente diverse, anche perché c'è il vox lì dietro, capito? È la regolazione proprio dello Smith. La regolazione dello Smith è come trasmettitore, non come ricevitore, capito? C'è qualche tastino da disinserire o da inserire, da controllarlo bene. Ok, lì ci sei? No, ti non si è spostato. No, va bene. Ma mi ricordo perché la mia era così, dietro c'ha dei tastini, sai, tipo quello che c'ha il K, dei tastini così, e poi c'ha dei potenziometri. Uno di quei tastini era proprio dello Smitter, però in trasmissione, non in ricezione, capito? Quindi non variava la ricezione, ma ti segnalava il momento in cui tu schiacciavi il PTT e quindi ci avevi la portante inserita, capito? Non devi parlare, non devi schiacciare solo la portante e basta, non devi parlare. Quando tu schiacci la portante lui si deve muovere già. Oppure davanti, guarda se c'hai qualche funzione inserita, io non me lo ricordo, capito? Non me lo ricordo. Cosa c'è? LC, cosa c'è? Power, qualcosa del genere, qualche pulsante, qualcosa che ti indica il power, la LC. Guarda se c'hai l'interruttore messo su LC, quindi quando parli ti sta dando la LC, non ti sta dando la potenza. Queste cose devi controllare. No, quello meter, perché disinserito? Inserisci il meter. Non già stai uscendo. Adesso lascia il meter inserito. Col meter inserito dietro dovresti andare normalmente a controllare quei pulsanti che ti ho detto. Se ce n'è qualcuno da inserire o da disinserire, non me lo ricordo già. Comunque il funzionamento è quello di quella radio. Sì, sta funzionando benissimo. No, adesso sta funzionando bene. Non me lo puoi mandare, adesso ho fatto io WhatsApp, ciò. Fregatene, se tu mi stai dicendo che quello lì va bene così. Formulazione molto bella, simile a quella del 440. Va bene, con microfono normale. Io prendo buono quello che mi stai dicendo, va bene così. Qua lo sto dando 50 euro con il microfono, è nuovo nuovo, ti ripeto, c'è anche il connettore, solo che il connettore è ICOM, ok? Perché lo stavo usando sull'ICOM, quindi c'è da invertire il filo e portarlo agli AES. Non quello ce l'ho anche io, ma non ho il servizio, la scatola pure ce l'ho il 440 io. Quello del 430 quando l'ho comprato non me ne hanno dato niente, né manuale e né scatola, non è nulla. Invece il 440 c'ho tutto io, l'avevo preso tutto completo, scatola, manuale, tutto, connettori, tutto ciò. Vabbè, se l'avete controllato sta andando benissimo la sala grande, non ci sono problemi. Non a comprare niente, e così io il 430 quando gli ho mandato 180 euro, settembre mi, sto parlando di settembre, siamo a novembre, cioè siamo a dicembre, l'avevo mandato a luglio, agosto c'erano le feste eccetera, ma le ferie, e me l'ha rimandata a settembre, 180 euro più 20 andare e 20 a tornare, 220 euro ho speso per mettere a posto il 430, capite? Tutto revisionato, tutto ok, mentre il 440 me l'avevo fatto l'anno scorso, nel 2016. Nel 2016 me l'aveva fatto lo stesso, 180 euro anche lì, capito? Quindi, ecco come si fa a pagare, te l'aveva posto la cosa, però si fa pagare. Perché c'è umidità, io te l'ho detto che devi fare. Io quando c'avevo la collezione di quei baracchini lì, che una parte li avevo dati a te, erano qua in stanza, capito? C'avevo un altro mobiletto e ce li avevo tutti qua. Capito, dove c'è caldo, dove non c'è umidità, in garage c'è umidità, ci si rovinano. Fai come ti ho detto io, fai una bella mensola, un bel ripiano, li metti tutti in esposizione, te li tieni lì, capito? Fai un alimentatore unico, grosso, dove ci attacchi le alimentazioni e ogni tanto uno a uno le accendi, senza stare lì, attacca. Commutatore d'antenna, dove commuti l'antenna, l'alimentatore unico che alimenti le radio, e quando ne hai voglia commuti l'antenna e parli col baracchino che vuoi. Un NB? Ah, ho capito quello, sì, ce l'ho avuto anch'io, l'avevo dato. Va bene, comunque quando vuoi me lo dici, mi telefoni, tanto io sono a casa anche la mattina adesso, lui te lo prendi quel MD1, chi è che vuole entrare? Sento qualcosa sotto, non so, va bene, comunque niente, no, sta andando benissimo, non c'è problema, no, io se vuoi mi vieni e te le prendi, te le smonti addirittura e te le porti via, ma futta sempre, non devo piazzare più niente. Aspetta a vedere questo video, se è questo, vediamo, forse è questo qua, aspetta. Buonasera, ciao Gianni Capriglio, ben sentito, ciao anche Claudio. Vi stavo ascoltando perché stavo facendo roba, realmente vi stavo ascoltando. E beh, cosa aveva? E adesso va bene, è chiaro? Bella, sì, ho visto il video, sì, bello, però quel decimale, Gianni, mettilo a zero, non lasciare appunto 0,2, perché appunto 0,2 il decimale, mettilo a zero. E vabbè, ciao Gianni, buonasera, ben sentito. Cioè va bene, comunque ho visto anche la modulazione. Questo di chi è il numero? Questo 363 finale? Di chi è? Ok, allora ti sto mettendo a log, va bene, adesso ti mando la foto della mia sala radio, visto che mi hai mandato il coso, te la mando così la vedi, ciao Gianni, avanti. Yeah, ciao, no, è chiaro, questo che sto usando adesso, la radio va bene, è forte, non è come i baracchini, la radio va bene, si sente chiaro e forte. Non è che sia amplificata, però è bella presente. Non è come quello dei baracchini picchi, più risultati picchi. Sì, ho capito. ce l'ho per fare da verte gamba. E siamo lo ricordo. C'è piccata, abbiamo morto. Siamo felici ci chiamano, andiamo felici temporale. Ecco, c'era di destra lui. Era delle MSI, col vento. Lo picchiavano pure questo cartello una volta, gli abbiamo detto guarda quella ragazza che ti sembra se viene con te a mangiare una pizza, e lui parla di vergogna, vai che già ci sta, vai, tu ci facciamo, tu vedi che vuoi mangiare una pizza pure con tu ciao, fai con la pizza, e anche di famigliare di testa, via, si perde un treno, se ne prende un altro, lui. Io me lo ricordo, ricattevamo avanti popolo e lui scappava, lo precipitavamo cadendo avanti popolo, la ricorsa e lui scappava. A Pastorino, ricattevamo avanti popolo, la ricorsa e lui scappava. Sì, Mario Lettoni, no, come per non me lo ricordo. Beh, comunque c'era un bel. E tu a San Luca te lo ricordi? Ah, ma Carre io l'ho conosciuto, ed era praticamente portazione del ferrovie, e aveva la casa lì dove c'era il ferrovie. Ma quella era la notte, era il figlio, che abitava vicino a casa mia, conoscevo tutti. E c'era scritto io, non me lo ricordo, mi hanno dato 5, e già davano tutti farmacia, io, Vaccarè, poi c'era Giulli, Giulli era il presidente. Baronero se baroneggiavo, tutti e due me li ricordo. Ma poi questo particolare non lo ricordo, che poi vi ricordo che di fronte c'era il circolo filatelico, vero? E a Puglia che me lo ricordo. Dici, ma li ricordo tutti che li siamo minati. Dopo tutti, io mi ricordo la farmacia, Camomilla, di qua non li ricordo. Sto dicendo, sbagliavamo la peli, io facevamo caccia al tesoro. Oggi oh, dimmi. Io vado a portare il cane, se ci siete sentiamo dopo, perché sto abbassando qua, ok dai, sentiamo dopo se ci siete, che è mancata la luce qua. Ehi, ehi, va bene, vai pure a portare il cane. Ma questa pizzata come mai stata rinviata? Ah, già, cosa hai detto oggi? Non ho capito. Cosa hai detto? Ti ho detto. Ho detto questa pizzata che dovevamo fare. Ma Stefano non c'è fuori, all'estero, quando rientra. Dovrebbe rientrare la prossima settimana. Dove era fino all'anda? E io. Che cazzo, andava bene. Non problema. Vabbè dai, vai a portare il cane poi che ci sentiamo dopo. Ma ti stavo dicendo, già è tutta questa revival, mi ricordo che giocavamo a carte, che mangiavamo la pelle in sede, mangiavamo le pizze, organizzavamo caccia tesoro, gite, eravamo fatto po' che dico. Anche io ho avuto il portatile, ho iniziato con un portatile della Paese tre canali. Ma me l'hanno venduto una cazzata perché aveva i quattro sentiti. Il padrone non lo sapeva, diceva che non funzionava, che non era funzionante, poi un amico mi ha detto guarda che sono i soli qua, guarda che mi metti quanti bene, e così ci abbiamo fatto, se non avevo tutti qua che andava anche un buon po'. E anche quella un po' di antenna, la corsi, quella ragione, io la sto uscendo. Ho detto che l'ho avuta anche la colibri e quella con l'arancione. Eia! Gianni, tu stai uscendo, è lui che non sente. Ah, grazie sì. Sei tu che lo stai ascoltando, capito. A me mi sento. Ciao, ciao. Ciao, ti è partita qualche cosa. Sicuramente perché stava dicendo che lavoro messo l'insetto. Sei così. Ciao. No, vabbè. Lo ricordi di sì, quella radio. Ma la radio mai voluto avere 757. La carità era di Alverga. Sì, no, sto facendo quell'indagine del suicidio di Michela, dai, quella del portotorre. E niente, poi si è detto a capire chiamando, cioè dicendo cosa Gianni, e quindi la sua conferma. Scusa, un colpo di mazza. No, non pensa che non stia uscendo io, Claudio. Sei tu Gianni che non esci. E già lo sa lui che è lui che non esce, non ti preoccupare. E quella radio mi faceva impazzire a me, cazzo, un po' usciva, un po' non usciva. A carità, avevi una giubbella che ascoltava la cosa. Vabbè dai, vado a portare a Ciccio, ciao dopo. Ciao. Ciao Mucco. Ciao fra, ciao. E allora, ti grazie Gubinetti. Niente di particolare per il momento, stavo leggendo un po' di cronaca, quella di Porto Torres, per vedere cosa era successo. È un mistero, non dice niente, sono due che sono indagati, a quanto pare dice che c'è istigazione a suicidio. Ma solo loro sanno cosa è successo già. E tu? No, io niente di che, niente di che. Io ti mi sto rilassando un po', se ho tanti mal a lavoro, come sei. Basta, non sto facendo niente di che. La moto me l'ho venduta, me li lascio più la moto, ci sono la macchina. Vabbè. Anche perché adesso faccio freddo andare in moto. Vedo coraggiosi, grazie con la pioggia, ma me lo facevo anch'io prima, la mette con tutta la pioggia e è andato. Non ho mai desistito da andare, se decidevo di uscire uscivo lo stesso, però a un certo punto poi a conti fatti di fare due voli, due assicurazioni, e la moto mia era pesante a pagare, cazzo 3,2 euro però per 600, no? Lascia perdere. È una cosa già vissuta, tu ti ricordi che moto avevo io? Sì, io avevo quella lì, poi avevo la macchina di mia moglie, e quindi erano tre assicurazioni che uscivano, e non solo, quindi quanto anche benzina e gasolio e quant'altro, no? E già è bella la moto, anche perché se tu dici non ti parte la macchina, prendi la moto e fatti, capisci? Anche per quello è bella, perché io lavoro lontano, quindi cazzo, non è che ho possibilità di andare e fare, se non c'è il mezzo si spesso, perché andare a Santa Maria ogni volta non me la sento andare molto più a 25 aprile a tirare in curva, poi ci sono da diversi, io devo essere alle 8 al lavoro, poi esco alle 3 a volte, alle 2, sa, e mentre se dessi macchina è partito. Vabbè, non c'è dubbio, quello è vero. Già, diciamo che siamo abituati male, perché insomma, se uno vuole già va anche con i mezzi pubblici, solo che la comodità è bella per tutti. Arrivare per dire puntuali, non è, già va bene, quando è il mezzo è l'ideale. Va bene, già dai, sono stato giusto per fare un saluto e uno. Adesso lo so. Questo è il piccolo delinquente. E niente, già dai, ci siamo. Ciao. Ciao piccolino, ciao. E quanto c'è adesso? Dillo tu, quanti anni hai? Qua? Ciao per nome, ciao, state bene, ciao. Ma porco di affetto! Sentito dai, non te la ricordi l'affetto? No! Perché ti stavo dicendo, quanti anni hai? 4, lui no, 5 anni, perché non te la ricordi l'affetto? 5. Ai, dopo non si ricorda l'età, è fatto bene a correggerlo. No, ma io ero il cappotto, anche all'altro. Oh, può succedere, già può succedere. Una volta che ho fatto fare la figura, siamo andati in un ufficio, stavo a fare delle visite e cose, e hanno chiesto l'età. E io ho detto 5 anni, invece di avere fatto così da poco. E mi ha detto, ma io ho 5 anni, papà, con la testa. Già sono attenti, va bene già, dai, ciao. Vedi di lui, siamo a vedere dove ti dica, se non ti ricordo di fare il video, ciao. Vabbè, mi sono a poco, vai. mia, ti ho detto se l'hai messa a posto, io non l'ho mai potuta vedere quella radio. Un po' funzionava, un po' non funzionava, l'accendevo, dopo che stavo trasmettendo si spegneva, poi un casino, se te l'ho detto io. Te l'ho detto che è un casino, no, non mi è piaciuta quella radio a me. Non lo so, adesso la terra non bene di nuovo. Vieni. Aspetta un secondo che mi cambio. A mangiare devi andare. Io anche noi ci abbiamo la pizza, infatti adesso accendo il forno. Dove vado a mangiare già? No, a toccare, poi domani chiamami, io domani mattina. Verso 9:15 ho un appuntamento in banca, devo portare la documentazione pensionistica, cioè in banca all'Inps. Poi appena mi libero magari ci sentiamo, capito? E tu a presto devi scendere a Sassari. Io alle 9:15 devo essere, perché non ne faccio fila che ho l'appuntamento con un funzionario, devo dare tutta la documentazione, capito? Che l'ho preparata, quella che mi hanno chiesto, l'ho preparata questa settimana. Quindi alle 9:15 c'ho appuntamento, penso di non trattenermi più di un'oretta, dai. Non lo so, ma che ora devi scendere a Sassi? Quell'ora non mi trovi già. A quell'ora non mi trovi. Io appena mi libero magari ti posso chiamare, al limite ti raggiungo come abbiamo fatto l'altra volta. Vabbè, allora tu chiamami al telefonino magari quando hai finito. Se io sono ancora in banca, cioè all'Inps, te lo dico, se ho finito ci vediamo, e se no ti raggiungo come l'altra volta, capito? E io, vabbè, non ti preoccupare, tu hai una maniera nell'altra, già te lo faccio avere, non ti preoccupare. Trapponato, non la potevo, alla fine non la potevo più vedere io, non la potevo più vedere perché ogni momento c'era un problema, capito? Sembrava che era tutto a posto, e invece, non c'era sempre problemi. Problemi, allora l'avevo data e basta. Non ne ho comprato più di quelle radio, capite? No, esce molto bene. Esce benissimo con il microfono normale, capito? Con l'MD1 uscirà ancora meglio. Anche vabbè, perché la tavola, la capsula è diversa, però è sempre normale il microfono, capito? Sempre normale, però io ce l'avevo sul TV, sull'ICOM e funziona molto bene. Cosa? Da molto che non lo vedo. L'ho visto una volta lì a Ossi che sta tornando a casa, in campagna lì, l'ho visto. Poi non siamo più visti, capito? No, ma neanche io, come vedi, io non ci parlo lì. C'ho la mia frequenza LPD, rimango lì, così, monitor, capito? A volte ci spostiamo a fare due chiacchiere anche lì, però non mi attirano quelle frequenze. Preferisco più la 27, dai. Va bene, già, ti lascio che vado a cenare, io. Ci sentiamo domani, allora, ci aggiorniamo domani, ok? Sì, se manca il mio, è così, un portatile, c'ho 5 watt. Però, ti ripeto, non lo uso, dai. Lo tengo sempre in ascolto, non c'è problema. Va bene, dai. Ci sentiamo già che vado a cenare. Ci aggiorniamo domani mattina, ok? Tu chiamami, io ti dico a che punto sono. Se sono a punto buono ti raggiungo direttamente, ok? Devo andare prima lì e poi mi devo spostare in Piazza d'Italia a portare la documentazione in banca per farmi l'accredito della pensione a gennaio, capito? No, qui sono giocati, io ho un Voxon, un VR8. Il mio è un Voxon, non è Boafeng, quelli sono giocato, io ho una roba professionale, però è amatoriale, capito? Lo uso a livello amatoriale, l'ho sempre usato, però c'è anche quelle frequenze lì. Allora giornata, e non che devo morrere. Ciao, buona cena anche a te famiglia, dai. Ci aggiorniamo domani. Poi non è una maniera nell'altra, come abbiamo fatto l'altra volta, già te lo faccio vedere, ok? Ciao.